Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Ci eravamo subito intesi, eravamo stati attratti fin dal primo istante, questo devo dirlo, dalle nostre differenze, che erano in effetti differenze abissali, benché avessimo spontaneamente la medesima concezione dell'arte. Solo un paio di giorni dopo questo incontro sul Mönchsberg, Wertheimer si è unito a noi. Glenn, Wertheimer ed io, che per le prime due settimane avevamo abitato ciascuno per proprio conto, ma tutti e tre in alloggi assolutamente inadeguati della città vecchia, alla fine affittammo insieme per la durata del nostro corso con Horowitz una casa a Leopoldskron nella quale potevamo fare ciò che più ci piaceva. Nella città vecchia tutto aveva avuto su di noi un effetto paralizzante. L'aria era irrespirabile, le persone intollerabili, l'umidità dei muri aveva recato grave danno a noi e ai nostri strumenti. In realtà abbiamo potuto continuare il nostro corso con Horowitz solo grazie al fatto che ce ne siamo andati via da quella città, la quale è in definitiva la città più avversa all'arte e allo spirito che si possa immaginare. Un buco ottuso e provinciale, con gente stupida e muri freddi, nella quale con l'andare del tempo tutto è reso ottuso, tutto senza eccezioni. È stata la nostra salvezza aver impacchettato le nostre quattro carabattole ed essercene andati fuori a Leopoldskron, che allora era ancora un prato verde nel quale pascolavano le mucche e dimoravano gli uccelli a centinaia di migliaia. La città di Salisburgo, che essendo stata dipinta di fresco fino ai suoi più piccoli anfratti, è adesso ancora più orribile di quanto fosse allora, 28 anni fa. Era ed è tuttora una città nemica di tutto ciò che gli uomini hanno di più intimo, che col tempo viene da essa annichilito. Noi questo l'avevamo capito subito ed eravamo scappati a Leopoldskron. I salisburghesi sono sempre stati atroci, così come il clima nel quale vivono. E quando oggi giungo in questa città, non solo mi confermo nel mio giudizio di allora, ma tutto mi appare ancora più atroce. Eppure certamente fu per noi un grandissimo vantaggio aver frequentato il corso di Horowitz proprio in questa città così avversa allo spirito e all'arte. In un ambiente di studio che c'è ostile, studiamo meglio che in un ambiente a noi amichevole, e colui che si accinge a studiare farebbe bene a scegliere un luogo di studio che gli sia ostile piuttosto che un luogo con un'atmosfera amichevole, in quanto un'atmosfera amichevole gli toglierebbe gran parte della concentrazione sullo studio, mentre un ambiente a lui ostile permette una concentrazione totale al 100% su questo studio, dal momento che su questo studio egli deve concentrarsi se non vuol cadere in preda alla disperazione. E in questo senso Salisburgo, come tutte le altre cosiddette belle città, è probabilmente raccomandabilissima per chi voglia compiervi un corso di studi. Certo, soltanto per un carattere forte, un carattere debole andrebbe in rovina inesorabilmente in brevissimo tempo. Per 3 giorni Glenn era stato ammaliato dall'incanto di questa città, per poi accorgersi ad un tratto che si trattava, come si suol dire, di un incanto fasullo, che quella bellezza era in fondo ripugnante e che gli esseri umani in questa città dalla bellezza ripugnante erano volgari. Il clima prealpino rende psicopatici gli esseri umani che già da piccolissimi hanno dovuto subire l'ottusità e che con l'andare del tempo diventano malvagi, dissi. Colui che vive qui e non mente a se stesso, questo lo sa bene. Colui che vi giunge da fuori se ne rende conto dopo poco tempo e deve andar via prima che per lui sia troppo tardi, a meno che non voglia diventare come questi ottusi abitanti di Salisburgo, come questi psicopatici che con la loro ottusità uccidono a poco tutto ciò che ancora non è come loro. All'inizio, disse Glenn, aveva pensato che crescere qui sarebbe stato bellissimo, ma già 2 o 3 giorni dopo il suo arrivo gli era parso un incubo essere messi al mondo in questa città e qui essere costretti a crescere, a diventare adulti. Questo clima e questi muri uccidono la sensibilità, disse, e io non ebbi altro da aggiungere. A Leopoldskron, lo spirito maligno di questa città non poteva più danneggiarci, pensai mentre varcavo la soglia della locanda. In fondo, non fu soltanto Horowitz che mi insegnò a suonare il pianoforte fino alle sue estreme conseguenze. Fu anche il quotidiano contatto con Glenn Gould nel periodo in cui seguimmo il corso con Horowitz, pensai. Il mio ultimo maestro prima di Horowitz era stato Führer, uno di quei maestri che ti soffocano nella mediocrità, per non parlare di quelli che avevo avuto prima di lui, tutti nomi illustri, come si suol dire, che ad ogni piede spinto suonano in pubblico nelle metropoli e occupano cattedre assai ben remunerate nei nostri celebri conservatori, pur non essendo altro che gente rovinosa, uomini che suonano il pianoforte senza avere la minima idea dei concetti musicali, pensai. Dappertutto suonano e occupano posti di insegnamento questi maestri di musica e guastano migliaia e centinaia di migliaia di allievi, quasi che il loro compito vitale consistesse nel soffocare sul nascere le doti straordinarie dei giovani musicisti. Non c'è posto al mondo in cui l'irresponsabilità regni sovrana come nei nostri conservatori, pensai, i quali recentemente hanno preso il nome di università musicali. Di 20.000 maestri di musica, uno solo è il maestro ideale. Horowitz era quello che intendo un maestro ideale, pensai. Glenn, se si fosse dedicato all'insegnamento, sarebbe stato lui pure un maestro ideale. Glenn, al pari di Horowitz, possedeva la sensibilità e la comprensione ideali per questa disciplina. Anche lui sarebbe riuscito nell'intento di trasmettere quest'arte. Ogni anno decine di migliaia di studenti di musica percorrono la strada dell'ottusità negli istituti superiori di musica e sono mandati in rovina dai loro inqualificabili maestri, pensai. Capita qualche volta che diventino famosi pur non avendo capito niente, pensai mentre varcavo la soglia della locanda. Diventano Gulda o Brendel, eppure non sono nulla. Diventano Gilils, eppure non sono nulla. Anche Wertheimer, se non avesse incontrato Glenn, sarebbe certo diventato uno dei nostri più importanti virtuosi del pianoforte, pensai. Non avrebbe dovuto abusare delle scienze dello spirito, come io del cosiddetto campo filosofico, perché come io da decenni ho abusato della filosofia o del campo filosofico, così Wertheimer ha abusato fino alla fine della sua vita di quelle che vengono chiamate scienze dello spirito. Lui non avrebbe riempito tutte quelle schede, pensai, e io non avrei riempito tanti manoscritti. Sono crimini contro lo spirito. Questo, pensai, entrando nella locanda. Cominciamo come virtuosi del pianoforte e finiamo per rovistare e frugare nelle scienze dello spirito oppure nelle filosofie e così ci roviniamo. Perché non ci siamo spinti fino al limite estremo e al di là di questo limite estremo, pensai, e abbiamo abbandonato il pianoforte per riguardo a un genio nel nostro campo. Ma a essere sincero, io non sarei comunque mai potuto diventare un virtuoso del pianoforte, perché in realtà non volevo essere un virtuoso del pianoforte, in quanto ho sempre avuto contro questa idea le più ampie riserve e ho soltanto abusato del virtuosismo pianistico ai fini del mio processo di intristimento, sembrandomi addirittura fin da principio che chi suona il pianoforte fosse un personaggio ridicolo. Essendo stato traviato dal mio talento veramente straordinario per lo studio del pianoforte, io questo talento l'ho prima applicato all'attività pianistica e poi, dopo 15 anni di torture, l'ho buttato a mare da un momento all'altro, senza farmi il minimo scrupolo. Non è nel mio stile sacrificare la mia esistenza al sentimentalismo. Sono scoppiato a ridere e ho fatto trasportare il pianoforte nella casa del maestro. Poi, per vari giorni, mi sono divertito di me stesso che ridevo del trasporto del pianoforte. Sì, proprio così, da solo mi sono preso gioco della carriera del virtuoso che io stesso da un momento all'altro avevo spezzato. E forse questa carriera da me infranta tutta un tratto, pensai entrando nella locanda, è una parte indispensabile del mio processo di intristimento. Noi tutti sperimentiamo ogni sorta di cose per spezzare di continuo questi esperimenti. Gettiamo tutto a un tratto decenni di esistenza nel mucchio dei rifiuti. Wertheimer è sempre stato più lento, mai risoluto come me nel prendere le decisioni. La sua carriera di virtuoso del pianoforte l'ha gettata nel mucchio dei rifiuti vari anni dopo di me e, a differenza di me, non se n'è fatto una ragione né allora né mai. Di continuo l'ho sentito rammaricarsi per il fatto che non avrebbe dovuto abbandonare l'attività artistica, che avrebbe dovuto continuare a suonare, che entro certi limiti il colpevole ero io, essendo stato sempre io il suo modello nelle questioni importanti, nelle decisioni esistenziali, così ha detto una volta, pensai, entrando nella locanda. Per me e per Wertheimer aver frequentato le lezioni di Horowitz è stato micidiale, mentre quelle lezioni erano state per Glenn l'espressione del suo genio. Non Horowitz, pensai. Ma Glenn aveva ucciso sia in me sia in Wertheimer tutto ciò che aveva a che fare col virtuosismo pianistico e in definitiva con la musica in generale. Glenn ci ha reso impossibile il virtuosismo pianistico in un'epoca nella quale noi due credevamo ancora fermamente nel nostro virtuosismo pianistico. Per vari anni ancora dopo il corso di Horowitz avevamo creduto nel nostro virtuosismo, benché esso fosse già morto nel momento in cui avevamo conosciuto Glenn. Chissà se non fosse andato da Horowitz e avessi continuato a seguire le lezioni del mio maestro Wührer. Chissà se in quel caso oggi non sarei davvero un virtuoso del pianoforte, uno di quei celebri virtuosi, pensai, che tutto l'anno viaggiano in lungo e in largo tra Buenos Aires e Vienna con la loro arte. Lo stesso vale per Wertheimer, ma subito mi dissi di no, un no estremamente deciso, poiché fin dall'inizio avevo odiato il virtuosismo con tutto ciò che esso significa e porta con sé. Odiavo innanzitutto l'idea di presentarmi davanti a tanta gente e odiavo gli applausi più di tutto il resto. Gli applausi non riuscivo a sopportarli. Per molto tempo non seppi se ciò che non sopportavo era l'aria viziata nelle sale da concerto oppure gli applausi o entrambe le cose, fino a quando mi fu chiaro che non sopportavo il virtuosismo in quanto tale e specialmente il virtuosismo pianistico. Non c'era nulla, infatti, che io odiassi come il pubblico e tutto ciò che a questo pubblico è legato, e quindi odiavo anche il virtuoso e i virtuosi in sé. E Glenn, in realtà, suonò in pubblico solamente per 2 o 3 anni, poi non sopportò più di suonare in pubblico e rimase a casa, e laggiù, nella sua casa in America, diventò il migliore e il più importante tra tutti quelli che suonano il pianoforte. Quando 12 anni fa noi andammo a trovarlo per l'ultima volta, già da 10 anni Glenn non si esibiva più in un pubblico concerto. Nel frattempo era diventato il più lucido di tutti i folli. Era giunto al vertice della sua arte e ormai era questione di tempo, di un tempo brevissimo, poi di sicuro sarebbe stato colto dall'ictus cerebrale. Wertheimer aveva allora la mia stessa sensazione, anche lui pensava che a Glenn non restasse da vivere se non pochissimo tempo, lo disse a me che gli sarebbe venuto un colpo. Eravamo rimasti per 2 settimane e mezzo nella casa di Glenn, dove lui si era sistemato uno studio. Come durante il corso di Horowitz a Salisburgo, egli suonava il pianoforte pressoché tutto il giorno e tutta la notte. Aveva fatto così per anni, per un intero decennio. «Ho dato 34 concerti in 2 anni e questo mi basta per tutta la vita», aveva detto Glenn. Con Glenn, Wertheimer ed io suonavamo Brahms dalle 2 di pomeriggio fino all'1 di notte. Intorno alla sua casa Glenn aveva posto 3 guardiani che avevano l'incarico di tener lontana la gente. All'inizio, per non essergli di peso, noi avevamo deciso di non fermarci da lui nemmeno per una notte, ma poi rimanemmo per 2 settimane e mezzo. E allora per me, per Wertheimer, fu di nuovo chiaro che la nostra decisione di rinunciare al virtuosismo pianistico era stata giustificatissima. «Mio caro soccombente», fu il saluto di Glenn a Wertheimer. Con tipico sangue freddo americano-canadese, Glenn sempre aveva definito Wertheimer come soccombente, riservando a me un semplice e secco filosofo che mi lasciava del tutto indifferente. Wertheimer, il soccombente, era, agli occhi di Glenn, uno che va a fondo, ininterrottamente e sempre più a fondo, mentre io, secondo lui, avevo in bocca ogni momento e con una regolarità che gli riusciva probabilmente insopportabile la parola filosofo. E dunque era più che naturale che noi due fossimo per lui il soccombente e il filosofo, pensai quando entrai nella locanda. Il soccombente e il filosofo erano giunti in America per rivedere il virtuoso del pianoforte Glenn, per nessun altro motivo, e per passare a New York 4 mesi e mezzo in compagnia di Glenn per la maggior parte del tempo. «Dell'Europa non ho nostalgia», aveva detto Glenn già al momento di salutarci. Per lui l'Europa non aveva più senso. Si era barricato nella sua casa, barricato per tutta la vita. Noi tre abbiamo sempre avuto il desiderio di barricarci in casa per tutta la vita. Fin dalla nascita tutti e tre abbiamo avuto il desiderio fanatico di barricarci in casa, ma Glenn era quello che nel suo fanatismo si era spinto più in là. A New York alloggiavamo accanto all'hotel Taft e, dati i nostri intenti, non avremmo potuto scegliere posto migliore. In una stanza sul retro del Taft, Glenn si era fatto installare uno Steinway sul quale suonava ogni giorno da 8 a 10 ore e spesso anche di notte. Non passava giorno senza suonare il pianoforte. Fin da principio Wertheimer ed io amammo New York. Non solo è la città più bella del mondo, è anche quella che ha l'aria più salubre, ci dicevamo in continuazione. In nessun'altra parte del mondo abbiamo mai respirato un'aria migliore. Glenn confermava quel che noi sentivamo. New York è l'unica città al mondo nella quale un uomo d'ingegno può respirare liberamente non appena vi mette piede. Ogni 3 settimane Glenn veniva da noi e ci mostrava le parti più segrete di Manhattan. Il Mozarteum è stata una cattiva scuola, pensai mentre entravo nella locanda, anche se sotto un certo aspetto per noi è stata la migliore perché ci ha aperto gli occhi. Tutti gli istituti di insegnamento superiori sono cattive scuole e quello che noi frequentiamo è sempre il peggiore di tutti se non riesce ad aprirci gli occhi. Che razza di miserabili maestri abbiamo dovuto sopportare! Han davvero violato le nostre menti, tutti quanti rapinatori dell'arte, annientatori dell'arte, uccisori dell'ingegno, assassini di studenti. Horowitz era un'eccezione, come Markievicz e Weg, pensai. Ma non basta un solo Horowitz, pensai, a far sì che un'accademia diventi una scuola di gran classe. In quell'edificio, celebre allora e ancora oggi come nessun altro edificio al mondo, dominavano gli strimpellatori. Se dico che vengo dal Mozarteum, gli occhi della gente si riempiono di lacrime. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.